con Francesca Olivieri, regista del film Bria, che sarà al cinema da martedì 26 marzo 2019. Francesca, ben trovata. Lo Buongiorno, raccontiamo brevemente questo film? Bria è la storia di una donna, di una sarta, una creatrice di moda che ha lasciato il suo paese d'origine situato in una striscia di terra al confine tra la Calabria e la Basilicata sul Pollino e che compie un ritorno a casa dove si riappropria della sua lingua madre. E si riappropria anche delle tradizioni del popolo al quale appartiene. Com'era nato il progetto, l'idea? L'idea nasce in modo più abbastanza spontaneo. Sono di origine arbrescia, mia nonna parla questa lingua e è capitato tutto un po' per caso. C'è stato un professore di linguistica che è venuto a consultare mia nonna 4 anni fa. All'epoca in cui stava scrivendo questo dizionario Arbashkur, il professore si chiama Costantino Bellusci, e da lì è nato, diciamo, un iniziale interesse alla lingua. Successivamente mi sono appassionata a tutti gli altri aspetti della cultura arbresh, i canti, i viersh, le danze, le valli, e quindi da lì ho costruito poi un personaggio che incarnasse, diciamo, tutta la loro storia. Ecco, ci sono stati vari documentari anche che si sono occupati delle varie comunità Arbëresh nel sud dell'Italia. Qual è la tua conoscenza di questa realtà? Che ne dici di questa comunità? Sullo stato attuale, allora, diciamo che c'è un fermento che ho potuto constatare appunto in questi anni di ricerca in cui mi sono avvicinata a vari paesi, in cui ad esempio Santa Sofia de Piro, dove c'è una forte rappresentanza musicale degli Arbëresh, piuttosto che altri paesi dove invece persistono manifestazioni. Però diciamo che l'idea del film nasce anche per diciamo, accendere un po' una miccia intorno a questa storia, nel senso che credo che ci sia una parte ancora nascosta che non è ancora emersa, quindi mi piacerebbe che emergesse anche grazie al film, ecco. Quali sono gli elementi di questa cultura che ti affascinano? Sicuramente il fatto che abbiano resistito, c'è cioè proprio il concetto di resistenza rispetto a tutto quello che hanno subito inizialmente quando hanno lasciato la loro terra, quindi c'è un processo di migrazione doloroso che c'è stato secoli fa, e sicuramente il fatto che abbiano saputo mantenere comunque una lingua innanzitutto e alcune tradizioni all'interno comunque di comunità che li hanno ospitati, come in Calabria, in Basilicata e in diversi altri luoghi del sud Italia, pur appunto mantenendo la loro diversità, ecco, quindi questo mi affascina sicuramente. Come è stata la costruzione del film? Su cosa avete puntato? Tanti aspetti, allora per me, ripeto, inizialmente ho fatto questa proposta ai due produttori, Fabrizio Nucci e Nicola Rovito, di fare un film in lingua Arbëresh. L'idea era quella, perché diversamente da appunto documentari come citavi tu o altri supporti che sono stati realizzati sulla cultura, non esiste un film recitato in lingua Arbëresh fino ad ora, quindi l'idea è nata da quello. Poi successivamente ho sviluppato in fase di sceneggiatura appunto piccolo, diciamo, racconto familiare che è in parte autobiografico, in parte ispirato, insomma, a diverse donne che conosco, quindi un po' esperienze personali. Quindi diciamo che la figura poi di Aida è un incrocio di tante persone, di tante donne che ho conosciuto e in parte anche, insomma, me stessa. Qual è stata la risposta della comunità alla visione del film, se c'è stata? Per ora hanno visto semplicemente il trailer, hanno visto alcune immagini come tutti, però diciamo sicuramente si sono dimostrati solidali e entusiasti, tant'è che ci aspettiamo un bel numero di partecipanti la sera dell'anteprima sicuramente, e quindi a quanto pare insomma siamo già in sold out rispetto alle prenotazioni, mi hanno informato questa mattina, quindi una bella notizia, una bella risposta, quindi sono contenta per adesso. Una curiosità per chi ci ascolta, di quante comunità, di quante persone stiamo parlando? Allora, mi sembra 80.000, non sono molto brava io con i numeri, però mi sembra circa 80.000 persone che parlano ancora la lingua, ecco, io quello quantifico, poi non, Non saprei dire rispetto alle origini chi ha sangue ardeschi, no? Questo non è una statistica della quale sono in possesso, però Stiamo parlando di diversi 70 mesi. Sì. paesi, in diverse regioni del Sud Sì, Italia. stiamo parlando di Puglia, stiamo parlando di appunto Sicilia. Sicilia anche, esatto, Molise, c'è anche una piccolissima comunità anche in Molise, Sì. quindi diciamo tutto quello che è comunque il sud sicuramente. Francesca, che tipo di distribuzione sarà? Allora, la distribuzione è curata da Lago Film, che è una società calabrese. Sicuramente stiamo cercando di creare una rete attraverso appunto le comunità che ci hanno supportato, anche insomma i comuni stessi che ci hanno aiutato inizialmente a partire con il film. Quindi diciamo andremo sicuramente a riunificare, insomma, a creare un po' a federare, come si dice, le comunità e fare in modo che il film sia distribuito principalmente insomma, nei posti ai quali si rivolge, ecco. Poi l'augurio è quello di ovviamente distribuirlo anche all'estero. Siamo già stati contattati da diversi istituti di cultura italiana, da Germania, Francia, Norvegia, quindi insomma speriamo di portarlo un po' dappertutto. E allora ricordiamo l'uscita in sala del film Arbria di Francesca Olivieri al cinema da martedì 26 marzo 2019. Francesca, un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie, Crepi. Grazie, grazie. Ciao.